ora! È ora di avere un sito internet! È ora di vendere i tuoi prodotti online! È ora di farlo da solo! Perché è facile! Perché tu puoi! Con Supersite su Aruba.it. Effetto giorno di Alessio Maurizi. Caso Suarez, spunta anche il nome di Paratici. Il direttore sportivo della Juve avrebbe chiesto di risolvere la questione dell'esame per il calciatore. Coronavirus, l'allarme dell'Europa. In alcuni paesi la situazione è peggiore che a marzo. In Campania, obbligo di mascherina anche all'aperto. Movimento 5 Stelle, il presidente della Camera Ficco dice stop a liti intestine e verticismo, ora serve collegialità. Conte, avanti col programma, riforma fiscale a dicembre. Standard & Poor's rivede le stime sull'Italia con un calo minore del previsto per il PIL, meno 8,9%. Hong Kong, arrestato e poi rilasciato l'attivista per i diritti civili Joshua Wong, accusato di assembramenti illegali. Buongiorno da Alessio Maurizio e dalla redazione. Dunque, ben ritrovati con il punto delle notizie di metà giornata. In primo piano gli sviluppi del caso Suarez, ma anche la politica con le dichiarazioni del presidente della Camera Fico a Radio 24. Ha detto stop a liti e verticismi nel Movimento 5 Stelle. Poi, per quanto riguarda l'emergenza coronavirus, c'è una nuova ordinanza in Campania che prevede l'obbligo di mascherina anche all'aria aperta. Ne parliamo più avanti. Iniziamo però con il caso Suarez. Secondo il Corriere della Sera, nell'inchiesta sull'esame truccato all'Università di Perugia c'è anche il nome del dirigente della Juventus, Fabio Paratici. Spunta anche il nome del direttore sportivo della Juventus, Fabio Paratici, nell'inchiesta sull'esame di italiano di Luis Suarez. Il dirigente bianconero si sarebbe interessato in prima persona della vicenda, stando a quanto direbbero in alcune intercettazioni telefoniche i vertici dell'Università per Stranieri di Perugia, dove si era svolto il test sostenuto dal calciatore uruguaiano per ottenere la cittadinanza necessaria al suo tesseramento. Un esame taroccato, stando a quanto emerso dalle indagini della procura del capoluogo umbro, che ha indagato 5 rappresentanti dell'Ateneo, compresa la rettrice Giuliana Grego Bolli e il direttore generale Simone Olivieri. Al momento non risultano invece ipotesi di reato a carico di dirigenti della Juventus. La procura federale della Federcalcio ha comunque deciso di avviare una sua indagine per verificare eventuali illeciti sportivi. Andrea Viali, Radio 24, Il Sole 24 Ore. In Campania, come anticipato, da oggi scatta l'obbligo di indossare la mascherina all'aperto. Lo ha stabilito poco fa il presidente della regione De Luca, che ha firmato una ordinanza al termine della riunione dell'unità di crisi. Da Padova alla Calabria alla Sardegna si cerca comunque di contenere gli ultimi focolai del contagio in Italia, mentre negli altri paesi, dove la situazione è ancora peggiore, si decidono nuove restrizioni. Nel giorno in cui riaprono le scuole anche nelle ultime regioni del sud, l'Italia si trova a fare i conti con nuovi focolai di contagio e piccole zone rosse. Ma la situazione nell'insieme resta migliore rispetto al resto d'Europa, dove il quadro, in alcuni casi, denuncia la commissaria europea alla salute Kriakides, è peggiore di marzo. Nella penisola l'ultimo focolaio è a Padova, 30 positivi in un asilo notturno, e dall'altra parte dello Stivale, in Calabria, scatta da oggi fino a domenica la zona rossa per il piccolo comune di Stefanaconi, mentre prosegue in Sardegna il semi-lockdown di Orune, e sempre nel Nuorese anche il calcio locale rischia lo stop. Il quadro italiano, con 1640 contagi nell'ultimo bollettino, resta migliore di altri paesi come la Spagna o la Francia, dove le città ora, a cominciare da Marsiglia, protestano contro le nuove restrizioni, mentre in Germania aumentano i ministri in quarantena. Israele invece rafforza il secondo lockdown generalizzato con altre restrizioni fino all'11 ottobre. E la situazione è ancora peggiore negli Stati Uniti, che solo ieri hanno registrato 37.000 casi, o in Brasile, che conta 139.000 decessi. Raffaella Calandra, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Era la politica, il voto non premia né blinda il governo, saremo giudicati per ciò che riusciremo a realizzare per gli italiani. Così Giuseppe Conte torna sul dopo voto e conferma il cantiere per la riforma fiscale verso un sistema, dice, più equo ed efficiente. Stop alle liti intestine nel movimento è intanto l'invito del presidente della Camera Fico rivolto ai dirigenti del Movimento 5 Stelle dai microfoni di Radio 24. Una maggioranza in subbuglio dopo il voto, con il Movimento 5 Stelle sempre più spaccato. Il premier Giuseppe Conte lancia un vertice con i capigruppo di maggioranza e preme sulle riforme. A dicembre quella fiscale, dice, per arrivare ad un sistema più equo, è il momento di agire. C'è poi quella della legge elettorale. Infine lo Ius Culture da discutere in Parlamento e qui arriva il primo scoglio, la riforma dei decreti sicurezza del governo giallo-verde chiesta da idem, sempre in pressing anche sul MES. Ma il Movimento 5 Stelle è nel caos. Stefano Buffagni attacca i vertici, non è chiaro se Crimi o Di Maio. Spero finiremo di fare gli struzzi, dice, capendo come cambiare e cacciando i mercanti dal tempio. Mentre Roberta Lombardi se la prende con Virginia Raggi, candidata non vincente a Roma, e ammette, mi piacerebbe fare la governatrice del Lazio, candidata probabile, come si vocifera, se ci fosse l'accordo 5 Stelle PD. Elisabetta Fiorito, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. Ne parleremo ancora nella seconda parte di Effetto Giorno con Gianluigi Paragone, fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle. Per ora vi propongo l'analisi di Daniele Biacchessi. L'esito delle elezioni regionali e del referendum sul taglio dei parlamentari si riflette inevitabilmente sulle dinamiche interne alla maggioranza che sostiene il governo Conte bis. Il segretario del PD Nicola Zingaretti chiede una nuova fase basata sulle riforme. Si immagina un colpo d'ala dell'esecutivo, ma in realtà altro non è che la richiesta formale di un riequilibrio di rappresentanza politica all'interno dell'accordo con il partner di maggioranza, il Movimento 5 Stelle. Per il PD le costanti fibrillazioni interne al Movimento 5 Stelle frenano il rilancio dell'agenda e fanno temere smottamenti al Senato, dove i numeri dei parlamentari filogovernativi sono assai risicati e basta niente per far cadere Conte. Sono molti i dossier aperti nella maggioranza, a modifica dei decreti sicurezza, 5G, recovery plan. La nuova agenda cela la volontà del PD, di Italia Viva, di una parte del 5 Stelle di mettere in campo a breve un impasto di governo con nomi vecchi e nuovi piazzati in dicasteri strategici. La sensazione che, al di là delle dichiarazioni ufficiali, tutto sarà chiarito dopo gli stati generali dei pentastellati previsti il prossimo 4 ottobre. Un congresso, o meglio un vero e proprio regolamento di conti interno al movimento che influirà certamente sulle sorti sempre traballanti del presidente Conte. Spazio adesso ai dati economici. È stato rivisto al meglio il dato italiano sul PIL da parte di Standard & Poor's, mentre la Banca Centrale Europea analizza le caratteristiche della crisi economica a causa Covid. L'economia registra un forte recupero, come previsto, ma il livello dell'attività resta al di sotto dei livelli pre-Covid. Lo scrive la Banca Centrale Europea nel consueto bollettino mensile sull'Eurozona, stimando un PIL in crescita dell'8,4% nel terzo trimestre dell'anno. La pandemia di coronavirus, scrivono gli esperti di Francoforte, resta la principale fonte di incertezza per l'economia mondiale e continua ad avere un forte impatto sulle finanze pubbliche dell'Eurozona. Il costo di bilancio delle misure di contenimento della pandemia è stato molto elevato per tutti i paesi dell'area dell'euro, spiega la BCE, anche se l'onere e la capacità di risposta variano da un paese all'altro. Standard & Poor's intanto ritocca all'insù le stime del prodotto interno lordo del nostro paese. Il PIL quest'anno si attesterà a meno 8,9% contro il meno 9,5% stimato in precedenza, per poi tornare a crescere del 6,4% nel 2021. Teresa Trillò, Radio 24, Il Sole 24 Ore, Roma. All'estero adesso, arresto e rilascio per l'attivista di Hong Kong, Joshua Wong, tra i leader dell'opposizione al governo locale, espressione di Pechino. Il fermo era scattato con l'accusa di assembramento illegale. Arrestato dalla polizia di Hong Kong per qualche ora con l'accusa di assembramento illegale e poi rilasciato. Così l'attivista pro-democrazia Joshua Wong è finito ancora una volta in manette per una protesta del 2019 in cui avrebbe violato la legge che vietava la copertura del volto con una maschera durante manifestazioni e raduni pubblici. Su Twitter è stato lo stesso Wong a commentare l'accusa d'aver violato la draconiana legge antimaschera che in seguito è stata dichiarata incostituzionale. Joshua Wong è finito in manette ed è già stato liberato più volte, l'ultima 2 settimane fa, al rientro da un viaggio da Taiwan per aver violato le regole della libertà su cauzione. Dopo l'approvazione della controversa legge sulla sicurezza nazionale che consente di arrestare chiunque sia accusato di compiere attività terroristiche e atti sovversivi, Joshua Wong aveva espresso il timore di finire nuovamente in manette e di essere estradato in Cina. Adriana Fracchia, Radio 24, Il Sole 24 Ore. Poco fa il Ministero dell'Interno ha autorizzato la Alan Kurdi con a bordo 125 migranti a sbarcare in Sardegna. La decisione è stata presa in seguito alla richiesta della nave di potersi avvicinare alle coste per il peggioramento delle condizioni meteo. Contestualmente, fa sapere il Viminale, è stata avviata la procedura europea di ricollocamento. L'80% dei migranti soccorsi, dice il Ministero dell'Interno, verrà trasferito in altri paesi europei. Il giuramento di Alexander Lukashenko, il presidente della Bielorussia, manca di qualsiasi legittimazione democratica, poiché l'Europa non riconosce i risultati falsificati delle elezioni. Lo ha detto l'alto rappresentante per la politica estera europea Borrell. Nel paese intanto ancora manifestazioni, ancora arresti, 360 da parte della polizia. Simone Bellezza, ricercatore di storia contemporanea all'Università di Napoli, al microfono di Laura Bettini. Lo scenario bielorusso è molto diverso da quello dell'Ucraina di qualche anno fa. Nel mondo dell'opposizione bielorussa non c'è nessun esponente che sta proponendo all'opinione pubblica un riposizionamento internazionale del paese. Si tratta semplicemente di scontento nei confronti del governo del presidente Lukashenko e del fatto che Putin, da abile stratega, ha, come dire, investito in vista delle elezioni un po' su tutti gli attori in campo, tanto sull'alleanza con Lukashenko, tanto con gli esponenti dell'opposizione. Ovviamente l'Unione Europea sta protestando perché il risultato delle elezioni, così come da qualche tempo a questa parte, è stato falsificato, ma di fatto anche la candidata che è arrivata a seconda, che probabilmente ha vinto le elezioni, a Svetlana Tikhanovskaya, ha detto che per l'appunto non ha nessuna intenzione di portare il paese all'opposizione o contro la Russia. 13 e 12 minuti, facciamo un break, Effetto Giorno torna tra poco con tutte le altre notizie e gli approfondimenti. Ripartiremo dai risultati dell'analisi sul contagio di coronavirus a Castiglione d'Adda, fatti dal professor Massimo Galli, un'analisi importante su un'intera comunità con alcuni risultati anche in esclusiva proprio per Radio 24, 349-238-6666, a tra poco. Blumatica, il software scelto dalle aziende per la sicurezza dei lavoratori. Blumatica.it vi presenta Effetto Giorno. Ecco le notizie di oggi. Caso Suarez, spunta il nome di Paratici. Il direttore sportivo della Juve avrebbe chiesto di risolvere la questione dell'esame di italiano per il calciatore. Movimento 5 Stelle, il presidente della Camera Fico dice stop ai verticismi, serve collegialità, Conte, avanti col programma, a dicembre riforma del fisco. Coronavirus, l'allarme dell'Europa, in alcuni paesi situazione peggiore che a marzo, in Campania torna l'obbligo di mascherina. Lo studio sulla popolazione di Castiglione del professor Galli, positivo il 25%, un terzo non ha avuto sintomi, bambini poco contagiati, ne parliamo tra poco. È con noi Massimo Galli, professore di malattie infettive all'Università di Milano e primario al Sacco di Milano. Buongiorno. Buongiorno. Benvenuto Galli, grazie per aver accettato il nostro invito a parlare dei dati che sono stati appena presentati di quella rilevazione su tutta la popolazione, una rilevazione di massa, anche se in una piccola città, sugli anticorpi anti-Covid, che lei ha fatto eseguire con una serie di test a Castiglione d'Adda, nell'Odigiano. Lo ricordiamo, era uno dei paesi dove c'era stata la prima diffusione della pandemia di coronavirus, era stato inserito nelle zone rosse, nelle prime zone rosse in Italia. Che risultati ha ottenuto? Così, diciamo, una descrizione in generale. Quanta parte della popolazione è venuta a contatto col virus? Castiglione è uno dei luoghi, ahimè, colpiti inizialmente da questa epidemia. Ancora non sappiamo perché. Luoghi della cosiddetta prima zona rossa, della prima zona chiusa. Un paese che ha pagato un contributo terribile, a questa malattia, e in cui c'è stata una grandissima volontà dei cittadini a partecipare a questo studio che li ha coinvolti praticamente tutti. Sono venute quasi 4.200 persone su 4.600 cittadini registrati, non sono venuti quelli che stavano in quarantena a casa e quelli che per qualsiasi motivo non erano assenti dal paese, altrimenti, voglio dire, l'adesione è stata altissima, veramente praticamente un'adesione totale. Mi aspettavo che l'infezione, avendo potuto giocare senza controllo, è un'infezione di cui ci si è resi conto quando chiaramente la situazione era già sfuggita di mano, non si sapeva, non si conosceva, non si immaginava che potesse diffondersi in quel modo e in particolare in quell'area. Mi aspettavo di trovare anche più infetti di quanti ne ho trovati in realtà, o meglio, più persone che abbiano avuto, che avessero avuto in precedenza l'infezione, di quanti ne abbiamo trovati. Perché effettivamente quanti erano? Meno del 25%, quindi un quarto della popolazione. 22,6%, meno di un quarto della popolazione. Questo è importante, sa, perché ecco, se uno volesse stare ad aspettare la cosiddetta immunità di gregge, che ce ne vuole, ha bisogno di percentuali assai più robuste, bene, insomma, Castiglione ha pagato un tributo di morti. Con precisione non dobbiamo ancora fare i conti, ma i morti sono stati sicuramente più di 70 e i ricoverati molti di più. Senta, invece, per quanto riguarda anche alcuni aspetti interni, no, a questa sua analisi, per esempio per quanto riguarda i bambini, so che è venuto fuori che i bambini hanno un tasso di contagio e di trasmissione più basso. E questo l'abbiamo già pubblicato addirittura, tant'è vero che fino ad ora le sto dando notizie che tutto sommato erano già comparse, voglio dire, no? Nel dato dei bambini è stato pubblicato insieme a quelli degli adulti, è abbastanza impressionante vedere come nei bambini al di sotto dei 10 anni che sono venuti a questo test ci può essere un bias di selezione, come diciamo noi, perché comunque non erano numerosissimi rispetto alle altre fasce d'età della popolazione, però comunque un numero già discretamente consistente. Bene, nei bambini avevamo meno del 10% dell'infezione, negli ultimi novantenni più del 40% di persone che si erano infettate. Quindi, in altre parole, dati che cominciano a suggerire che nei più giovani non solo ci sia una minor attitudine a sviluppare malattia grave, ma anche una minor suscettibilità all'infezione. Con questo non voglio dire che il problema non sia reale tra i giovani e tra i bambini, perché l'infezione si diffonde anche lì e viene trasmessa con efficienza alle altre classi di età. Però è un dato di fatto che i dati di cui disponiamo suggeriscano che più vai verso i piccoli, meno hai frequenza di infezione, anche in una situazione come quella di questo luogo, di questo paese, in cui l'infezione ha circolato senza ostacoli, perché uno mi dice, vabbè, sai, in caso di emergenza metti al riparo vecchi e bambini, qui non poteva essere al riparo nessuno, perché quando il virus è arrivato non se ne conosceva l'esistenza, e questo è il motivo per cui diventa particolarmente interessante lo studio di un paese come questo. Senta, Galli, e poi c'è un prego. Altro dato importante, questo è un'anticipazione invece, nel senso che l'abbiamo estratto proprio molto di recente e andremo a svilupparlo. Beh, di queste 918 persone che hanno avuto una positività per gli anticorpi, sì, un sintomo, almeno uno, riferibile alla malattia Covid, ce l'hanno avuto il 69,5%, il che vuol dire che il 30,5% ha avuto un'infezione del tutto asintomatica. Quindi un 30% delle persone infettate. Quanti siano gli asintomatici? Bene, nei più piccoli questa sintomatologia assente, sì, raggiunge quasi il 40%, mentre nei più anziani, più che nei più anziani, la parte centrale della popolazione dai 20 ai 59 siamo a un 27% o un 25% di asintomatici. Curiosamente abbiamo, e questo sarà da approfondire, nei più anziani in assoluto un 35%, cioè si torna alla percentuale media più o meno. Ecco. Senta Galli, le voglio chiedere, chiarissimo, ha spiegato molto chiaramente i risultati di questo studio, anche alla luce di questo studio su Castiglione. Le voglio fare una domanda che riguarda però più in generale questa seconda ondata che è in corso in Francia, in Spagna, in Europa. Oggi l'Unione Europea dice, attenzione, ci sono più casi in alcune situazioni che non a marzo-aprile, però sembra di poter vedere che per quanto riguarda ospedalizzazioni, danni alle persone e decessi, comunque i dati siano fortunatamente molto più bassi di allora. Come si può spiegare questa situazione secondo lei? Guardi, la risposta che ho già dato è un po', mi espongo nel darla perché è un'ipotesi, non ho dati di certezza. La mia sensazione è che il grande sacrificio del lockdown italiano, molto più rigido di quello che è stato applicato in altri paesi, abbia comportato la possibilità di ridurre drasticamente la diffusione dell'infezione e rendere quasi Covid-free alcune regioni italiane. Questo è probabilmente il motivo per cui, nonostante un'estate direi non così attenta come tutti avremmo auspicato, si sia riusciti ad avere finora una situazione che non possiamo definire completamente tranquilla, perché è oggettivo che un aumento di casi lo stiamo osservando, voglio dire, no? Ecco, comunque un numero quotidiano di casi che non ti fa percepire una flessione, giriamola così, ecco. Però niente di paragonabile a quello che sta succedendo nei paesi attorno, anche molto vicini a noi, Francia, Spagna e in Gran Bretagna, voglio dire. Quindi io mi auguro che anche i dati dei prossimi 15 giorni, che sono abbastanza cruciali, tenendo conto della riapertura delle scuole e comunque, sì, della riapertura di molte attività, finiscano per essere confortanti e che per noi la storia, non dico finisca qui, ma possa essere contenuta in questa misura. Speriamo, naturalmente. Quanto lo speriamo basta tutti, per mantenerci, professore, preoccupati, sì, ma e per obbligarci a stare attenti, ma non per impedirci di continuare le attività fondamentali del paese, cosa che purtroppo rischiano. Israele ha chiuso e non è certo uno stato disorganizzato sulle emergenze. Io la ringrazio, professor Galli, abbiamo finito il tempo a disposizione, grazie davvero per essere stato con noi, buon lavoro naturalmente, grazie ancora. E allora, 13 e 26 minuti, adesso cambiamo argomento, due notizie che riguardano la casa. Perché da un lato ci sono le stime preliminari dell'Istat sull'andamento dei prezzi nel settore immobiliare. Ebbene, c'è una crescita sul trimestre, nel secondo trimestre dell'anno, del 3,1%, su base annua la crescita del 3,4%. Secondo l'Istat dunque si conferma, dopo la lunga flessione degli anni tra il 2012 e il 2019, una ripresa dei prezzi delle abitazioni in compravendita, quarto trimestre di crescita consecutivo con un più 3,4%. Dall'altra parte invece parliamo di una questione molto più complessa, anche se anche l'aumento dei prezzi degli immobili potrà far piacere a qualcuno, farà meno piacere a chi deve comprare casa. E in questo caso parliamo di affitti. A Milano, nella sola Milano, ma è un allarme che riguarda tutta Italia, si segnala un netto aumento delle famiglie in difficoltà che non riescono a pagare l'affitto. Siamo andati a vedere che cosa è accaduto in particolare nella città di Milano con l'ausilio della Caritas di questa città. Cristina Carpinelli. Secondo uno studio di Caritas, in 5 mesi a Milano 314 persone hanno perso la casa, 611 hanno chiesto aiuto per pagare l'affitto. Si parla di una cifra 4 volte superiore a quella dell'anno precedente. Il rischio è che la situazione si trasformi in emergenza a ridosso dell'inverno, come racconta Francesco Chiavarini di Caritas Milano. Mesi senza reddito hanno costretto queste persone a non poter più sostenere i costi appunto della casa. Ma insieme a queste persone, che sono quelle ovviamente più deboli, ci sono un'altra fascia di persone che una casa ancora ce l'hanno e ci chiedono aiuti per pagare le rate, che sono un numero 4 volte superiore a quello che abbiamo riscontrato nello stesso periodo l'anno precedente. Sarà molto complicato poterli ospitare nelle strutture di accoglienza, cioè non sarà possibile aggiungere posti letto nelle strutture di accoglienza per i limiti sanitari imposti dall'emergenza. I dati milanesi sono in linea con un quadro nazionale che racconta una crisi che riguarda il 50% dei 4 milioni di famiglie in affitto. Cristina Carpinelli, Radio 24, Il Sole 24 Ore. E allora è 13:28, facciamo una piccola pausa, torniamo tra poco, le informazioni di borsa, poi i titoli, tutte le altre notizie di oggi, torneremo a parlare delle conseguenze del voto di domenica e lunedì con Gianluigi Paragone, fuoriuscito dal Movimento 5 Stelle, commenteremo anche le parole di oggi del Presidente della Camera, esponente di spicco del Movimento, Fico, che è proprio dai microfoni di Radio 24 ha detto basta verticismi, e cercheremo di capire a chi sono rivolte queste accuse all'interno del Movimento dopo quella che è stata una sconfitta netta per quanto riguarda le elezioni regionali. 349-238-6666, a tra poco. Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Effetto Giorno. Queste le notizie di oggi. Alan Kurdi ha autorizzato lo sbarco in Sardegna della nave con 125 migranti a bordo. Caso Suarez spunta il nome di Paratici. Il DS della Juve avrebbe chiesto di risolvere la questione dell'esame del calciatore. Coronavirus, l'allarme dell'Europa, situazione peggiore che a marzo. In Campania torna l'obbligo della mascherina. Hong Kong arrestato e rilasciato l'attivista dei diritti civili Joshua Wong. Movimento 5 Stelle, il presidente della Camera Fico, stop a verticismi, serve collegialità, ne parliamo tra poco con Gianluigi Paragone, fuoriuscito dal Movimento. :35, eccoci qua di nuovo in diretta con Effetto Giorno, i vostri messaggi cari ascoltatori al 349-238-6666. Velocemente ci sono messaggi persone che si complimentano con il professor Galli per la sua esposizione, per la sua chiarezza, per essere stato esaustivo, insomma ci ha raccontato anche in esclusiva alcuni dei risultati dell'indagine sull'epidemia di coronavirus fatta a Castiglione d'Adda, un'indagine su tutta la popolazione, quindi una fonte importantissima di dati. Vi ricordo un dato fra tutti, un terzo dei contagiati erano asintomatici, quindi la proporzione tra chi non ha avuto sintomi e chi ha avuto sintomi sarebbe di 1 a 2, o un terzo ai 2/3. Allora, poi c'è anche una domanda preventiva per Gianluigi Paragone, prima dell'intervista, ma gliela facciamo tra poco. Adesso invece il punto, il vice direttore del Sole si occupa di lavoro da casa, perché oggi c'è attesa per un vertice del ministro Catalfo e i sindacati su questo. Il punto di Alberto Orioli. La fase di emergenza per lo smart working finirà il 15 ottobre. poi diventerà uno strumento del nostro nuovo new normal, della nostra nuova normalità post pandemia. La ministra Catalfo e i rappresentanti di imprese e sindacati ne parleranno anche oggi. Lo smart working del resto cambia le regole e i luoghi del lavoro. Quanto alle regole, l'importante è che non si ingessi troppo uno strumento che per definizione ha bisogno di flessibilità operativa, e l'idea di imporre delle quote per legge non sembra ottimale. Quanto ai luoghi, la partita è ancora tutta da studiare. Le città rischiano di svuotare i loro grattacieli, ma i borghi potrebbero trovare una nuova vita se cablati a dovere. E l'Italia davvero diventerebbe il paese più bello del mondo per il lavoro da remoto. Certo, va completata la cablatura e la diffusione della banda larga. Il 33% delle famiglie, secondo l'Istat, non ha ancora un computer. È un dato che toglie molta retorica positiva alla narrativa sullo smart working. C'è poi un altro punto controverso, la pubblica amministrazione. Come dice Sabino Cassese, lì bisogna evitare che il lavoro agile sia sinonimo di imboscamento. È l'altra faccia dello smart working, che di smart, a dire il vero, non ha proprio niente. Sì, basta con le battaglie intestine. Io sono convinto che dobbiamo riuscire a avere una collegialità maggiore, perché alcuni problemi che sono vivi tuttora oggi derivano secondo me anche da un verticismo che c'è stato in un periodo troppo spinto. Quindi una collegialità dove ognuno può dire la sua, dove si può trovare una sintesi di vari punti di vista, credo che sia non solo il stile della democrazia, ma una soluzione utile a tutti e anche migliore nei contenuti, nella maturità. Così stamattina 24 mattino Roberto Fico. Ecco noi il senatore Gianluigi Paragone. Buongiorno Paragone. Buongiorno, buongiorno. Eletto col Movimento 5 Stelle, adesso fa parte del gruppo misto, leader di No Europa per l'Italia, italexit.it. Paragone, stamattina con Fico, ma è l'argomento che voglio trattare anche con lei, è questo: insomma, il movimento è in difficoltà, c'è stato un risultato negativo per quanto riguarda le elezioni regionali, hanno preso pochi voti, liste che arretrano ovunque praticamente, non sono entrati nella partita per le elezioni dei presidenti quasi direi da nessuna parte, sotto accusa, lo ha detto Fico stesso, Calarocco ha detto non escludo scissioni, Fico ha detto basta verticismi, serve collegialità. A chi sono rivolte queste accuse secondo lei, intanto Paragone? Ma non lo so, ma il tema è molto più di identità che non di biglietti da visita e di relativi incarichi. Quando tu prendi il 2,7% in Veneto, che è uno dei motori economici del paese, ed esprimi però il ministro dello sviluppo economico, hai anche il vice ministro all'economia, hai anche il vice ministro dello sviluppo economico stesso, hai il ministro del lavoro, quindi prendi il 2,7% in Veneto, vuol dire che tu non sei più in partita. Quando a Trento, che è la città del sottosegretario alla presidenza del Consiglio, non entri neanche in consiglio comunale e anzi ti fai precedere dagli scissionisti, vuol dire che c'è un problema. Quando a Venezia prendi il 4%, quando a Lecco prendi il 3,7%, quando nelle Marche, che comunque sono un polo industriale che per quanto in crisi ha bisogno di rigenerarsi, e prendi uno streaming sito 7%, in Toscana 7%, in Liguria prendi un 7-8%, cioè, quindi quando tu nelle aree produttive del paese non vedi palla ed esprimi i ministri economici, sì, vuol dire che il tema è tutto politico. Però, non è un problema come lo stanno mettendo. Qual è il problema? Perché fin qua era la cronaca, no? No, ma attenzione, non è più la cronaca, è il peso specifico di queste elezioni. Sì. Cioè, lasciate da parte il pallottoliere. Cioè, il pallottoliere, che i dati che ho elencato sono il peso specifico di un movimento che non incide, che non entra. Cioè, questa è la differenza tra fare il solito commento post voto che si ferma al dato. Cioè, il dato bisogna inquadrarlo anche rispetto alle funzioni che il movimento ha dentro la compagine di governo. Ecco, ma fosse stato per lei, Paragone, che è rimasto nel movimento fino a un certo punto, poi avendone criticato una serie di scelte se n'è andato, cosa avrebbe fatto di diverso? Cioè, perché c'è stata questa sconfitta, che immagino dal suo punto di vista poteva essere evitata facendo politica diversamente? Come? Beh, ma Allora, se tu entri, uso questa metafora, se tu entri nel processo come pubblico ministero e quindi hai fatto le politiche contro il sistema, contro la casta, contro tutto quello che vuoi, e poi durante il processo ti comporti da avvocato, la gente dice, ma guardate che qui non funziona così. Il Movimento 5 Stelle era entrato in Parlamento e ha preso 33% con gli abiti del pubblico ministero. Non puoi diventare avvocato del sistema. Non puoi, per esempio... Dove sarebbe diventato avvocato del sistema il Movimento? Facciamo un esempio. Se tu, quando sulle partecipate di Stato, ti metti a confermare tutte quelle persone che avevi criticato quando eri all'opposizione... quello lì. Quindi le nomine, per esempio, questo è un passaggio. Le nomine, la conferma di De Scalzi, quando era soltanto un indagato dicevano che non era degno di ricoprire quell'incarico, ora che è imputato lo hanno riconfermato, ma questo è uno degli esempi. Ma andiamo su altri fatti operativi di oggi. Ci sono i truffati dalle banche a cui avevano promesso la restituzione di quello che gli era stato portato via e non hanno visto un centesimo, cioè un solo centesimo non l'hanno ancora visto. Non è un caso che Baretta, candidato sindaco a Venezia del PD, non ce l'abbia fatta, perché per le stesse motivazioni per cui era stato estromesso dal Parlamento, perché non è entrato in Parlamento, e ovviamente non può diventare sindaco di Venezia. Tutti questi esempi, sono esempi di scelte sbagliate, ma che dipendono anche da un metodo, come dice Fico. Il partito è stato gestito in maniera verticistica da Di Maio e dagli attuali dirigenti, fregandosi della natura del movimento, quindi diciamo facendo anche un torto al movimento. Lei tornerebbe nel movimento se cambiasse l'organizzazione anche politica? Ma no, perché non è più un problema di organizzazione, è un problema di sostanza. Ha perso completamente la sua fibra, la sua identità, forse ha avuto paura delle stesse parole di ribellione che aveva predicato negli anni precedenti. Ma le faccio però anche la domanda dell'ascoltatore che è arrivata, che avevo anticipato, è questa: Paragone si dimetterà dal Parlamento visto che il movimento è sempre stato contrario ai cambi di casacca durante la legislatura? Ma io sto dicendo le stesse cose che avevo detto in campagna elettorale, sia alle politiche sia alle europee. Non è una novità che io sia contro l'Europa, lo dicevo anche in campagna elettorale, cioè io ho preso i voti da pubblico ministero, per giocare il ruolo da pubblico ministero, non per fare l'avvocato. Paradossalmente chi ha rinnegato completamente il programma, e infatti si vede le legnate che prende, è il Movimento 5 Stelle. Quindi se c'è uno coerente con quello che ha sempre detto e scritto, è il sottoscritto. E quindi io me ne resto lì. Ma me ne resto lì per costruire ciò per cui mi hanno portato in Parlamento. Va bene. Cioè, se mancano, ci sono 196 milioni di euro di crediti vantati dalle imprese nell'indotto dei cantieri delle grandi opere, ok? Il fondo salva opere ha solo stanziato 40 milioni su 196. Stanziati a giugno non hanno ancora erogato un centesimo. Cioè, capite che l'economia reale rimane bloccata. Il 60% che avevano detto di defiscalizzazione sull'igienizzazione dei prodotti dal gel al plexiglass, che ovviamente per riaprire sono stati tutti costretti a prendere queste misure e questi prodotti, no? Non avevano detto che c'era una defiscalizzazione credito d'imposta del 60%, che fine ha fatto? Provate a chiederlo ai vostri radioascoltatori imprenditori. Fermiamoci qua, grazie Paragone, grazie per essere stato con noi, triplata anche con una certa eleganza la domanda sulla dimissione, sul cambio di casacca, ma insomma il tema è, per secondo Paragone, la coerenza del Movimento 5 Stelle. 13:46, Giulia Crivelli, Effetto Mondo, tra poco. Se sei un'impresa o un libero professionista, hai bisogno della PEC per attivare il tuo domicilio digitale, dove riceverai tutte le comunicazioni della pubblica amministrazione. Scegli la PEC preferita dagli italiani. Attivala facilmente su aruba.it.